Friuli nel mondo, 150esima trasmissione dedicata agli emigrati, ricordando Giuseppe Peresson. Il 26 giugno 1959 si spegneva in piano d'Arta Terme, all'età di 87 anni, il maestro Giuseppe Peresson, e la Carnia perdeva, oltre che un cantore sensibile ed ispirato, un carissimo figlio che alla modestia accomunava un amore profondo alla sua terra. Sono proprio queste virtù che affiorano anche nelle sue composizioni sacre e profane. La modestia infatti fu per lui sinonimo non solo di umiltà, ma anche di capacità espressa sempre senza alcuna ostentazione. Basti esaminare gli spartiti delle sue belle composizioni per capire la sua fecondità artistica, la sua competenza tecnica e la seria preparazione. La vita però gli fu matrigna, perché cieco a 3 anni fu costretto prima alla vita del collegio. Si diplomò infatti a Padova, ospite dell'Istituto Configliacchi, a 19 anni, sotto l'esperta guida del maestro Bottazzo. Poi dovette affrontare anni difficili, durante i quali visse in dignitosa povertà, subendo le limitazioni impostegli dalla sua minorazione fisica. Nella serena rassegnazione seppe elevare un inno di amore alla sua terra e manifestare più toccante il suo animo di poeta fondamentalmente malinconico ma profondamente religioso. Del maestro Peresson ascoltate ora alcune composizioni eseguite dal coro omonimo di piano d'arta diretto da Arnaldo De Colle. La Vigilia di San Juan, su parole di Ferdinando Somma, O Sunait Champanis, Primavere, L'Ave, su testo di Ferdinando Primus, Mandi Mandi, ed infine Tantum Ergo, a 3 voci maschili. Thank you. passare, il passare, la bufere, la bufere, anche il tir si passa. Lontano. abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.